Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mario ha 23 anni, è un giocatore importante, non è più un bambino, è un giocatore che è potenzialmente un campione. Però per essere campione non basta fare 8 tiri in porta dentro la partita, ma bisogna avere un comportamento giusto, perché poi sei un esempio per tutti i bambini che ti guardano, per tutto il mondo che ti guarda, e questo lui deve cambiare. Cambiare. Buongiorno a voi, Super Mario è lo psicologo. Buongiorno da Nicoletta. C'è stata troppa enfasi sulla presunta necessità di uno psicologo per Mario Balotelli, sempre più furioso e incontenibile quando gioca. In realtà però ormai tutti i club e le nazionali di alto livello, non solo nel calcio ma in ogni sport professionistico, si avvalgono di quelli che possiamo definire professionisti della mente, mettiamoci due virgolette, considerato non da ora uno degli aspetti più importanti nel training delle prestazioni sportive. Ognuno di noi però, non solo Super Mario, ogni giorno scende in campo e gioca la sua partita. Si trova ad affrontare momenti difficili, sfide impegnative di fronte a cui può sentirsi inadeguato, impreparato, e si confronta con l'insicurezza, la rabbia, la paura e diciamo anche la sua fragilità. E c'è chi chiede aiuto, chi vorrebbe ma non può farlo, chi non lo farebbe mai perché farlo sarebbe come ammettere una sconfitta. Voi avete mai pensato di ricorrere all'aiuto di uno psicologo o lo avete proposto ad un vostro familiare? E com'è andata? Se avete allontanato il pensiero, perché lo avete fatto? Per paura? Per principio? Per mancanza di risorse? Io direi, care amiche e cari amici, che questa è una buona occasione per parlarne, anche per chiarirci un po' le idee. Riflessioni a voce alta sul tema: chiede aiuto e a chi, o vado avanti da solo? 800-24-0024. A volte può essere utile parlare con una persona che sia obiettiva. Va bene, è giusto andare dallo strizzacervelli quando non fai che rimuginare, ma io sto bene, funziona a meraviglia. E poi, a dire la verità, la psicanalisi non mi convince fino in fondo, sapete? Io sono d'accordo. I miei genitori pensavano che i problemi della mente si potessero risolvere con l'esercizio fisico. Per questo in famiglia siamo tutti ottimi tennisti. È una strada senza ritorno. Prima ci vai una volta alla settimana, poi tre volte, fino a che ogni discorso che fai comincia nello stesso modo. Il mio analista dice che tutti hanno paura di questo. La terapia è qualcosa che induce all'autoindulgenza. Voi siete pronti? 800 24 00 24, come sempre potete scriverci al 349 238 6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Allora, ecco gli ospiti di oggi in studio: il professor Paolo Cavedini, psichiatra, professore alla scuola di psichiatria dell'Università di Firenze, bentornato. Buongiorno Nicoletta e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Abbiamo una new entry oggi che è la dottoressa Roberta Cacioppo, consigliere dell'Ordine degli psicologi della Lombardia e membro della comunità etica e deontologia dell'ordine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E in linea non c'è ancora, ma ci sarà Alberto Pellai, che voi conoscete bene, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Allora, vogliamo fare un breve commento su Super Mario e lo psicologo? Voi da addetti ai lavori, come avete letto la notizia? Professor Cavedini. L'ho letta con attenzione perché oltre a essere milanista sono anche tifoso di Super Mario, quindi particolare attenzione. Quindi è sfacciatamente di parte. Assolutamente sì. No, penso che da una parte sia assolutamente corretto ribadire l'importanza dell'etica sportiva e della lealtà, quindi sgombiamo il campo da equivoci su quello che sto dicendo. Dall'altra parte però vorrei un po' più di correttezza nei giudizi, perché se da una parte critichiamo i comportamenti legati all'impulsività, all'aggressività verbale, non dobbiamo dimenticarci che poi esaltiamo l'altra faccia della stessa medaglia, che è l'agonismo, l'istintività, che sono invece le doti che hanno reso Mario molto famoso nel mondo del calcio. Quindi stiamo un po' attenti a giudicare troppo facilmente i comportamenti quando poi li esaltiamo in aspetti che sono diametralmente opposti. Ma lei lo dice da psichiatra o no, da cuore da milanista? Lo dico... Io non ho, perché non ho capito quanto di queste due figure siano intrecciate tra loro. Allora, senza Super Mario il Milan va male, quindi questo è evidentemente un giudizio di parte. No, lo dico da psichiatra, nel senso che sostengo che poi dobbiamo sempre guardare la complessità degli aspetti temperamentali caratteriali di un individuo. Quindi non possiamo poi palleggiarcelo, a maggior ragione se è un individuo che è al centro dell'attenzione mediatica, proprio perché fa parte di un mondo che ha un importante ruolo nella società, palleggiarcelo rispetto a critiche ed esaltazioni con estrema facilità. Tutto questo però ribadendo l'importanza dell'etica sportiva, ci mancherebbe altro. E questa rabbia? E questa rabbia è la scarsa capacità a tollerare le frustrazioni di una sconfitta in quel momento, che poi non riesce a limitarsi alla fine della partita, al fischio dell'arbitro, ma deraglia, e qui c'è la componente patologica, se vogliamo, del comportamento, soprattutto poi nel momento in cui produce estreme conseguenze, perché non finisce lì, poi ci sono i danni alla società, i danni all'immagine, la perdita della performance sportiva, quindi bisogna saper valutare con attenzione le conseguenze dei nostri comportamenti. In questo caso Super Mario fallisce, purtroppo. Dottoressa Cacioppo, e lei? Allora, da questa notizia che cosa ha sottolineato? Che cosa le ha colpita? Poi dico che cosa ha colpito me. Allora, ma mi ha colpito soprattutto, adesso il collega parlava un po' degli aspetti un po' più tecnici, tra virgolette anche un po' clinici. Io sono stata colpita inizialmente dai titoli, soprattutto dall'enfasi che è stata data alla questione della misura estrema, di avere uno psicologo per Balotelli in questo momento. Misura estrema, ma così insomma, cosa significa che immagine diamo? Lei come psicologa ci non sono si sente una misura estrema? No. Sentiamo che dice Alberto Pellai, che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma a me la notizia di Super Mario ha colpito in due direzioni. La prima, ho trovato davvero buona l'idea di una squadra che ricorre a uno psicologo non per focalizzare meglio la prestazione sportiva, ma proprio per aiutare una competenza di vita in un suo giocatore, molto importante poi nella relazione con gli altri sul campo. Sì. La seconda è, mi sembra, un intervento di terapia coatta, cioè è fondamentale per riuscire bene in una psicoterapia che il paziente sia lei col suo terapeuta. Certo. Questo è un invio dal terapeuta, una prescrizione, quindi secondo me è molto importante, prima di annunciare in questo modo, in modo massiccio, una notizia del genere, è molto importante secondo me verificare che lui, il Super Mario, abbia voglia di questo super intervento, e quindi sarebbe stato secondo me molto migliore un annuncio dato da lui che dice: ammetto, ho un problema e a questo punto chiedo aiuto. Professor Cavedini, Carlo ci scrive: quanto influisce il testosterone nei comportamenti tipo quelli di Mario Balotelli, quindi diciamo un po' esuberanti? Beh, diciamo che il testosterone è un ormone che si correla ai comportamenti impulsivi. Che ci sia poi in quell'agito, in quel momento, una diretta correlazione tra queste due cose non è l'alibi, l'attenuante. È un po' tirata per i capelli. Però sicuramente il testosterone, come altre sostanze mediatori del nostro organismo, hanno un ruolo nella gestione dei meccanismi dell'impulsività. Direi, se voi siete d'accordo, di lasciare Super Mario e di tornare a noi. Ci sono momenti nella vita in cui la vita ci mette proprio alla prova, ci sentiamo fragili, impauriti, arrabbiati, anche incapaci di affrontare la situazione. Capita, ed è capitato a tutti. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo in questa nostra storia, sono io che vado a fondo, ti vorrei un amico per poterti dimenticare. Eh sì, però ci sono delle volte, dei momenti in cui l'amico, gli amici non bastano e sentiamo proprio l'esigenza di affidarci ad un esperto, a qualcuno di esterno che ne capisca qualcosa in più, che ci aiuti a vederci chiaro, a superare il malessere. Uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psichiatra, insomma. E queste tre figure sappiamo che sono figure di riferimento, ma a volte lì le sovrapponiamo, invece hanno dei confini ben precisi. Cerchiamo di fare un po' chiarezza, qual è, e soprattutto per capire qual è il professionista che fa per noi, quando e per quali ragioni consultarlo. Dottoressa Cacioppo, lo psicologo è entrato nella nostra quotidianità, lo sentiamo nominare sempre più spesso, è entrato anche nelle scuole, ci sono anche dei bei progetti di cui parleremo nel corso della trasmissione. professione, ma in realtà chi è? C'è chi lo chiama psicologo, chi lo chiama psicoterapeuta. Sono due figure uguali, con due nomi diversi, oppure che differenza c'è? Allora, sono due figure diverse. Diciamo che lo psicoterapeuta di solito è uno psicologo, in realtà poi può essere anche un medico, questa è una questione di legge un po' particolare. Comunque, sì, lo psicologo è innanzitutto un professionista, è un professionista della salute, e il suo compito è quello di utilizzare gli strumenti che ha imparato, che ha durante il suo corso di studi e durante il suo tirocinio, per intercettare appunto quella domanda di cui parlava anche prima Pellai, la domanda necessaria di una persona che si rivolge a qualcuno perché ha un suo bisogno, e metterla al servizio delle sue competenze tecniche. Mm-hmm. Lo psicologo è laureato in psicologia, ha fatto un tirocinio, un esame di stato, è iscritto quindi a un albo. Si occupa di che cosa? Di benessere, quindi di prevenzione, di fare diagnosi, di sostegno psicologico, quindi di aiutare le persone in periodi particolari della propria vita. Lo psicoterapeuta è uno psicologo che dopo questo iter ha anche frequentato una scuola di specializzazione, quindi sono altri 4 o 5 anni di studi, di training personale, di ulteriore tirocinio e di esperienza per diventare un vero e proprio terapeuta, quindi occuparsi nello specifico di psicopatologie nel momento in cui ci siano delle diagnosi molto ben definite. È chiaro, 800 24 00 24, ma se avete dei dubbi questo è il nostro numero verde, così come se volete raccontare una vostra esperienza, una vostra testimonianza, se avete bisogno di un aiuto, perché anche poi per scegliere lo psicologo bisogna destreggiarsi, ci sono tanti orientamenti, il cognitivo comportamentale, lo psicodinamico, ma io vado allo psichiatra, al nostro psichiatra, il professor Cavedini, insomma, psichiatra o strizza cervelli. Strizza cervelli, mi piace come definizione. Le piace di assolutamente più. Assolutamente sì. Ecco, anche lì questa figura, noi diciamo, sappiamo che è un medico, però è un medico che pensiamo curi i problemi gravi, seri, dice questo ha proprio bisogno di uno psichiatra, ma è uno di bravo, molto bravo, e tendiamo a pensare che sia il medico che risolve i nostri problemi di ansia, di depressione, di fragilità, dandoci delle pastigliette. Non che è sono così. Gli antidepressivi. Non è così. O meno, lo è in parte. Diciamo che l'idea che si ha dello psichiatra, che fortunatamente devo dire col tempo sta progressivamente migliorando in termini di opinione e di valutazione, è un po' il retaggio, no? Del nostro immaginario e di tutta quella che è il ruolo dello psichiatra nel passato, che era deputato all'istituzionalizzazione del malato grave. Sì. Adesso invece l'intervento dello psichiatra è sempre di più sulle condizioni meno gravi, ma non per questo meno disagevoli per la persona che ne soffre. È fondamentalmente un medico, sì, che poi al termine del corso dei 6 anni della laurea in medicina decide di fare la specializzazione, non in cardiologia, non in ginecologia, non in oculistica, ma in psichiatria. Essendo un medico è deputato ad effettuare una diagnosi integrata tra gli aspetti psichici e le condizioni mediche, internistiche, organiche dell'individuo, che spesso vengono sottostimate o sottovalutate. Non so, l'ansia per esempio può essere una manifestazione di un'alterazione delle funzionalità della tiroide di un individuo, quindi un medico che in una visione integrata, non soltanto focalizzata sul cervello della persona, riesce ad andare a fare una valutazione completa, sicuramente porta ad una diagnosi più precisa e più mirata. Quindi lei mi sta dicendo che magari io vengo da lei come psichiatra perché ho l'ansia e scopro che non ho bisogno di lei né di uno psicologo, ma di regolare l'attività della tiroide. Potremmo anche scoprire queste cose, e come medico so quali possono essere gli alti segnali che una disfunzione della tiroide può dare. Prima di dare la linea a Carlos dalla provincia di Varese, a Mauro da Treviso, voglio leggervi due messaggi. Robby: ho chiesto aiuto a una bravissima psicologa, mi ha aiutato tantissimo, mi ha salvato la vita e la famiglia, quindi un messaggio assolutamente positivo. Mentre un ascoltatore, Mauro, che gioca, mi ha fatto un po' un trucchetto psicologico, io faccio finta di esserci cascata, perché mi dice: dopo essere andato da uno psicologo te ne serve un altro per capire cosa ti ha detto il primo, e poi non esiste nessuna parola italiana che comincia con psi. So che non leggerete il mio sms, eccolo qua. Comunque bel programma, sottile. Grazie a Mauro e agli ascoltatori che stanno scrivendo. Intanto do la linea a Carlos, che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno, Carlos. Io chiamavo perché appunto questa mattina il problema è venuto a pennello, perché questa mattina ci pensavo a un psicologo, perché io sono stato lasciato dalla mia compagna già diversi mesi però non riesco a rassegnarmi. E quando arrivo a casa, che ci sono i miei figli a casa e tutto, vedo lei dappertutto e sto... E sta male. Sto malissimo, quindi pensavo se magari... Sì, c'era... Ecco, questo è un caso, Alberto? Alberto? Ecco, Alberto mi ha lasciato. Nel momento buono... Alberto se ne va, è un po' tipico degli uomini. Allora, dottoressa Cacioppo, Alberto ci sei? No. Dottoressa Cacioppo, Carlos ci ha raccontato il tipico mal d'amore che a volte prende, no, delle connotazioni molto pesanti. In questo caso, che cosa si va? Da chi si va? E che cosa è giusto aspettarsi? Beh, lo psicologo può essere sicuramente una figura indicata, nel senso che quello che ci sta dicendo Carlos è che ci ha provato, ma da solo si rende conto che non ce la fa, che il carico emotivo è troppo forte e che da solo non trova delle strategie. Con uno psicologo queste strategie le può trovare, delle strategie adatte proprio a lui. Una scelta molto soggettiva e molto personale. Prima il messaggio che leggeva dicevano di questa psicologa bravissima. Non so quanto sia necessario che uno psicologo sia bravissimo, deve essere bravissimo per quella persona, deve essere una relazione che si instaura insieme a quella persona e c'è un po' anche un'affinità elettiva. Certo che sono importanti le teorie, la preparazione tecnica e tutto quanto, ma quello che funziona è veramente la relazione. Ecco, io vorrei, così apriamo un capitolo sulla richiesta di Carlos. Allora, Carlos va da uno psicologo, ok? Può avere un po' come... si ha quando si va dal dentista una sorta di preventivo, tra virgolette, di quello che gli capiterà, di quello che costerà e di quanto tempo durerà il suo affiancamento allo psicoterapeuta? Allora, sì, è una delle questioni di cui di solito si parla insieme allo psicologo durante il primo colloquio e eventualmente durante i successivi. Di solito se ne utilizzano almeno 2 o 3 per inquadrare un po' bene la situazione. Dovrebbe essere lo psicologo di solito a comunicare queste cose alla persona che ha di fronte. Quando non succede o quando ci sono delle curiosità in più, è giustissimo che la persona stessa possa chiederle queste cose, per cui di solito si discute della durata delle sedute, della frequenza delle sedute, del costo, di come vengono pagate. Questi sono tutti dei criteri molto tecnici su cui è giusto che la persona sia informata e su cui è giusto che la persona dia il suo consenso, perché potrebbe essere che questa persona per X motivi non abbia desiderio, non abbia voglia o abbia delle difficoltà e delle resistenze che possono essere affrontate. Però è importante capire il momento in cui bisogna farsi aiutare. Carlos, noi restiamo qua, ci faccia sapere. Mauro da Treviso, buongiorno. Buongiorno Mauro. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io chiamo perché ho avuto un po' di esperienze con gli psicologi e sono state piuttosto positive. La cosa che avevo detto all'ultima volta che avevo fatto un incontro con uno psicologo è: eroe a colui che libera dal altrui perdute speranze. Perché mi sono trovato che gli psicologi sono meravigliosi quando ti aiutano a affrontare un problema e poi tu non hai più bisogno di loro per continuare a affrontarlo poi quando sei nel tuo privato o sei con gli altri. Certo. E anche a come avevate, vi ho chiamato quando avevo sentito la frase, ma serve andare dallo psicologo, serve quando ti rendi conto che con gli altri hai perso un po' il contatto. E quali sono stati, scusi Mauro, i segnali che l'hanno fatto capire, allora, che aveva un po' perso il contatto con gli altri? Perché può essere utile magari per chi ci ascolta, allora, identificarsi. Alle volte ad esempio uno si avvita in situazioni depressive, ad esempio adesso c'è il problema del lavoro, ci sono problemi di... Io sono un libero professionista, per cui ci sono momenti in cui ti trovi che dal tanto ti trovi che ti casca tutto addosso e ti senti un po' in trappola, perché dopo anche gli strumenti, i sistemi finanziari, tutto il resto hanno delle cose che sono dell'allucinante a certe volte, e alle volte ti trovi che ti senti perso, perduto. Per chiedere aiuto, facciamo così, non sempre sei capace di dare i segnali giusti e quando vieni mandato da uno psicologo, vieni portato da uno psicologo, spesso sei anche contrario all'idea di prendere, di dire io ho bisogno di uno psicologo. Certo. E di solito tutte le volte che sono andato io sono stato, mettiamolo così, invitato a fare un percorso di questo tipo. La prima volta è stato, faccio conto, all'età di 17 anni per il terzo tentativo di suicidio, e il primo l'avevo avuto a 7 anni. E da allora, dall'ultima volta che ho fatto questo incontro con questo dottore, non ho più avuto questo tipo di pensiero, nel senso che il è proprio... parlavate prima di rabbia rabbia manifestata o altro, che ha tantissime connotazioni o altro. Volevo sentire, Mauro, un parere rapido dal professor Cavedini prima di andare ai mercati, perché io parlerei con voi sempre, ma devo dare anche la linea ai mercati. Professor Cavedini, dal racconto di Mauro, che cosa, quale consiglio, indicazione possiamo trarre? Beh, innanzitutto che dalla mancanza di consapevolezza di determinati problemi se ne può anche uscire con un lavoro che inizialmente può essere in parte forzato e che poi arriva, come dire, invece a convincere il paziente e a portarlo in una certa direzione. L'altra cosa che condivido di quello che ha detto l'ascoltatore, che mi piace sottolineare, rimarcare, è il concetto poi del raggiungimento sì della libertà, ma del mantenimento dell'autonomia nella libertà, che è quella cosa per cui da un certo punto di vista, come dire, dello psichiatra e dello psicologo ad un certo punto ce ne dobbiamo liberare se stiamo bene. Ma voi non liberatevi di me, restate 800 24 00 24, confrontiamoci, cercheremo anche di capire quando, in quali casi la sinergia tra psicologo e psichiatra è fondamentale. Alcuni ascoltatori mi chiedono, ma non parlerete più della psicoanalisi? Daremo una definizione anche dello psicoanalista, toccherà alla dottoressa Cacioppo, ad Alberto Pelai se l'abbiamo ripescato. Mercati, meteo, io rimango qui, vi aspetto. Essere e benessere. Tempo, non c'è tempo, sempre più una fame, segue il nostro tempo. Volto di senso, senso di vuoto. E persone, quante tante persone, un mare di gente nel vuoto. Allora, psicologo, no, psicoterapeuta, vado allo psichiatra, però lo psichiatra mi dà i farmaci e forse sono più grave, e forse c'è anche lo psicoanalista, ma ci sono psichiatri che sono anche psicoterapeuti, ma lo psicoterapeuta non può prescrivere farmaci. Insomma, 800 24 00 24, oggi a Essere Benessere uno psichiatra, due psicologi ci aiutano a vederci un pochino più chiaro. Alberto Pellai è tornato in linea. Alberto? Eccomi qua. Ciao, io ti cercavo, ho detto quando uno ha bisogno, Alberto se ne va. A proposito di bisogno, riconoscere il segnale, riconoscere il momento in cui bisogna chiedere aiuto, ma è la persona che deve chiedere l'aiuto, che deve chiedere aiuto per sé, non può essere accompagnata, l'aiuto non può essere imposto da altri. È un po' quello che dicevamo prima anche relativamente al caso di Mario Balotelli, cioè la cosa che serve tanto a uno psicoterapeuta per poter fare un contratto terapeutico, un progetto terapeutico con il suo paziente, è che il paziente riconosca di avere bisogno di un aiuto, di un supporto. Di solito le due domande chiave che dovrebbero far entrare un paziente nello studio dello psicoterapeuta sono: dottore, sto male, questo molto in comune anche con la scienza medica, il che significa che il paziente ha un sintomo, e in questo caso è un sintomo mentale che parte nella sua mente, che davvero gli impedisce di vivere bene. O la seconda frase che il paziente potrebbe dire è: dottore, ho un problema e da solo non ce la faccio. La peggiore delle frasi che un paziente può dire al suo psicoterapeuta, e a volte succede, è: mi hanno detto che devo venire da lei. Ecco, questa è una frase in cui il primo passaggio che il terapeuta deve fare è costruire un'alleanza, perché è il paziente stesso che deve dire effettivamente ho un problema e qua c'è bisogno di lavorare. Andiamo, abbiamo Michele dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo solo dare una mia considerazione sul fatto del Balotelli, il psicologo. Perché ho una figlia adottata, così come è adottato Balotelli, e vi posso rassicurare, sarà anni che passo con gli psicologi, che le reazioni di Balotelli sono simili a quelle di mia figlia e secondo me, da quanto ho capito fino ad oggi, derivano solo da una rabbia dell'essere stati abbandonati. E purtroppo è difficile da gestire per me genitore, perché avete delle situazioni tipo il Balotelli che bacia la madre con tanta passione e la volta dopo dà un cazzotto a uno. Ecco, passiamo a questi stati. Io le vivo personalmente da 15 anni questa situazione e ho questa considerazione. Volevo mettere a disposizione questo mio intervento. La ringrazio. Grazie. Michele. Un rapido commento di Alberto Pellai alla telefonata di Michele. Ma in generale, proprio quando noi non siamo in grado di regolare le nostre attivazioni emotive, quindi veniamo controllati dalla rabbia perché non la sappiamo controllare. Questo è il risultato di un apprendimento che non abbiamo realizzato nella prima parte della nostra vita, la nostra infanzia. Quindi scusa, la tesi del nostro Michele è molto giusta. Andiamo... Però adesso Balotelli non è più un bambino, quindi sarebbe proprio fondamentale che in età adulta uno impari a gestire, a controllare i propri stati di attivazione emotiva, e se non ce la fa chiede aiuto. Ma siamo così fragili che dobbiamo diventare come gli americani, psicologo dipendenti? Io mi rifiuto, professor Cavedini, ci scrive Fiorella, magari abbreviata. Professore. Di diventare psicologo o psichiatra dipendente sicuramente non è auspicabile. Bisogna saper riconoscere ed individuare quali sono le vere condizioni di disagio, sia cercando di accogliere le nostre sensazioni, cioè come stiamo, e non fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, ma al tempo stesso anche di osservare molto i nostri comportamenti, perché come ci comportiamo o come gli altri ci dicono che ci comportiamo è un po' lo specchio di quello che pensiamo, quindi è molto importante. Cledis, non so se ho letto giusto il nome, da Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo dare il mio contributo nel senso, io ho fatto... un accompagnamento psicologico per più di 6 anni, devo dire che sono stati molto positivi, però io ho chiamato più che altro per un altro problema, per mio figlio. Ho un ragazzo di 19 anni che praticamente da sempre vive un mondo molto parallelo, lui non riesce ad accettare la realtà della sua vita in sé, diciamo così, e dice tanto di quelle bugie, inventa tanto di quelle storie che enquanto era piccolino magari io vedevo positivo, adesso che a 19 anni non riesco proprio a capire. L'ho consigliato magari di cercare un aiuto psicologico anche per capire. Che non ha mai cercato? No, lui ha fatto anche per un periodo, però è stato praticamente forzato da me. E lì il psicologo stesso mi diceva più o meno quello che avete detto voi. Cioè che se non va di proprio... Allora, due dettagli non trascurabili. 6 anni di terapia, non sono tanti? Assolutamente. Avete detto... sì. Nel senso che è chiaro che modificare con un intervento specifico e specialistico un disagio non è una cosa rapidissima, però è anche vero che la sensazione in questi casi di intervento terapeutico così prolungato è che si definiscano molto male gli obiettivi di una psicoterapia, e quindi anche si definisca molto poco il raggiungimento o il fallimento nel raggiungimento di quegli stessi obiettivi. E questo credo che sia poi chiaramente molto legato all'onestà intellettuale di ogni singolo professionista farlo. Dottoressa Cacioppo, si chiede aiuto, ci si rivolge allo psicologo per una o allo psicoterapeuta per un percorso, pesa anche in questo momento il discorso economico, quindi io prima dicevo una sorta di preventivo, ma è possibile anche, il servizio sanitario dà anche la possibilità di avere un consulto e di essere seguiti gratuitamente? E un'altra domanda, lo psicologo è deducibile? Allora, parto da questa dello psicologo deducibile, che è un po' più semplice. Sì, lo psicologo effettua una prestazione sanitaria, quindi le fatture sono deducibili fiscalmente. Per quanto riguarda invece poi l'organizzazione del sistema sanitario nazionale, è certo che c'è la possibilità di accedere anche o gratuitamente in alcuni casi, dipende molto dalle politiche delle singole regioni, oppure con dei ticket assolutamente agevolati, da 6 a 8 colloqui di solito con delle tariffe veramente basse, appunto in settore sanitario o più sociale, quindi per problemi di diverso tipo, quindi o più sul medico e sulla prevenzione, sulla cura, oppure più sull'area dei problemi familiari, delle dipendenze, dei consultori. Questo assolutamente esiste, è un po' complicato perché a volte ci sono anche delle liste d'attesa non indifferenti, è importante rivolgersi al proprio medico di base o a una persona di fiducia, di riferimento, anche o chiedere in ASL le carte dei servizi per orientarsi e poter così trovare un servizio ad hoc per sé. Insomma, la crisi pesa e la crisi viene additata come uno dei fattori che vedono l'aumento del consumo di antidepressivi, soprattutto tra le donne. Professor Cavedini. Ma mi sembra una lettura un po' semplicistica, no? Sul fatto che stando peggio e avendo più problemi nella vita di tutti i giorni ricorriamo di più all'uso di farmaci, anche perché poi c'è tutta la fetta di prescrizioni di psicofarmaci non da parte dello specialista ma da parte del medico di base, che spesso poi utilizza in certe situazioni farmaci poi inviandolo allo specialista, altre volte gestendo in autonomia questo pezzo. Quindi dire che dipende solo dal maggiore disagio che viviamo negli ultimi anni mi è sembra troppo. Un pochino riduttivo. Ed è francamente un ragionamento un po' più complesso. È vero, peraltro, che esiste spesso e volentieri una facilità nella prescrizione anche da parte dello specialista psichiatra eccessiva. E questo anche in relazione al fatto che non sempre si sa bene i farmaci cosa fanno con precisione, quindi non sempre ci consentono di raggiungere un obiettivo preciso e monitorabile, si tende ad allargare l'intervento farmacologico anche a farmaci spesso non strettamente necessari, e questo alza le prescrizioni, insomma. 800 24 00 24. Dopo le informazioni sul traffico, Giorgio da Latina, Vito da Catania, Giuseppe dalla provincia di Forlì Cesena, vi aspetto. Essere e benessere. Grazie ancora. Oh, di che, di niente. Ci vediamo. Ehi, senti, se vuoi salire un momento a bere un bicchiere di vino o qualcosa. Ah, no, però non voglio obbligarti, sarei in ritardo e tutto il resto. No, va benissimo, non importa, certo. Sei sicuro? No, ho tempo, se io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra. Oh, vai dallo psichiatra? Sì, da 15 anni soli. Da 15 anni? Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes. Oh. Eccoci, abbiamo Giorgio, buongiorno, da Latina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Giorgio. Allora, io chiedo scusa ai professionisti presenti in studio, però devo dire che a parte lo psichiatra, io figure come lo psicoterapeuta, lo psicologo, lo psicanalista non le riconosco tanto nella mia vita. Diciamo che penso che sia un errore di che cosa? Un errore della nostra società, nel senso che è la nostra società che produce questi effetti e quindi... E invece di è la società stessa che poi ci fornisce queste cure con queste psicoanalisi, sociologi, insomma, dà questa soluzione al problema, che a mio parere non è questa la soluzione. La soluzione è allontanarsi da questa società. Dico questo anche perché io sono stato in un altro ambiente, chiamiamolo così, di agglomerati umani, dove non rispondiamo a questo tipo di società, non rispondiamo a questo tipo di procedure di sociologi. Scusi, ma non ho capito dove è andato Giorgio negli agglomerati umani. Dove sono? Guardi, non io, ho capito qualcosa. Non posso dirlo, però le dico che è a sistema di villaggio tribale, dove ci si allontana definitivamente da queste cose. Ma e quindi non in Italia? Non in Italia. Quanto? Agglomerato quanto? No, lontano quanto? Sui 6.000 chilometri, tra l'Africa e l'Asia, insomma in Africa. Però è una cosa segreta, non si può dire. Sì, comunque farlo. Lì non c'erano, era libero da psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, qualche psichiatra, ce l'avevate? No. Non si aveva proprio bisogno. E senta Giorgio, mi incuriosisce, ma non posso andare oltre perché lei non mi dirà il nome del luogo, ma il messaggio è chiaro. Salva il professor Cavedini, strizza cervelli, semmai. Grazie Giorgio. Vito da Catania, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Invece la cosa è un episodio che mi è capitato, mio personale, di poter aiutare, diciamo, qualcuno, visto qualcuno che ho capito che aveva di bisogno, e poterlo aiutare. In effetti ci sono riuscito nel mio piccolo, ma vedo che c'è molta gente che diffida di andare a volte dal psicologo perché la vedono come una figura, come una persona se fosse atto, qualcosa di questo genere. Un privato come si può comportare notando qualcosa di questo genere, in casi di questo genere? A me mi è andata bene, ma a quante persone può andare bene qualcosa di questo? Dottoressa Cacioppo, quindi come si può aiutare una persona a individuare magari dei segnali o accompagnare? Partendo dalla percezione del disagio soggettivo, mi viene da dire innanzitutto, no? Quello che avevamo già accennato prima, una persona che già si accorge di aver bisogno di aiuto è il primo passo fondamentale. Poi è vero che penso che sia un po' naturale per tutti rivolgersi prima magari a un amico, a un familiare, eccetera. Abbiamo tenuto le due figure separate, ma spesso psicologo e psichiatra collaborano, sì. Anzi, dalla loro sinergia. Devono collaborare perché sono due figure che possono procedere non soltanto in parallelo, ma scambiarsi compiti e ruoli molto specifici in un percorso di terapia. io collaboro moltissimo con degli psicoterapeuti, mi viene in mente, non so, il trattamento di un problema di panico, il paziente viene da me, c'è una valutazione medica, una valutazione psichiatrica, la diagnosi, l'eventuale, quando necessaria, impostazione di un trattamento farmacologico, e poi lo psicoterapeuta a cui lo invio fa tutto il percorso cognitivo-comportamentale di gestione delle proprie paure, delle condotte di evitamento, eccetera, eccetera. Psicologo e psichiatra non devono diventare nostri compagni di vita, ma, professor Cavedini, neppure gli antidepressivi? Assolutamente no, gli antidepressivi devono essere presi, devono essere portati avanti secondo gli schemi di intervento approvati dalla comunità scientifica, interrotti quando necessario, quindi sicuramente un uso indiscriminato di farmaci è qualcosa che non va assolutamente bene, però i farmaci servono, quando sono necessari vanno utilizzati. E mai interrotti autonomamente, vero, la cura? Beh, credo che nessuna terapia in senso assoluto vada, non soltanto psichiatrica, vada interrotta in autonomia. Nel caso specifico bisogna evitare anche tutti gli effetti collaterali da sospensione brusca ed improvvisa. Andiamo a Giovanna, che ci chiama da Pistoia. Eccomi qua. Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. E dunque, volevo, appunto, ho seguito con molta attenzione la trasmissione, sì. Molto interessante. Grazie. E volevo dire, grazie a voi, volevo dire che io sono seguita da uno psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale della USL della mia città, di Pistoia, e io sono stata veramente fortunata, non ho mai speso una lira, sono seguita benissimo, e... come dire, di non avere paura, perché a volte capita, io stessa all'inizio ero un po' reticente, sì. Dicevo, ah, ma io non ho bisogno, invece è stato un percorso bellissimo, e volevo capire. Giovanna, al momento buono, Giovanna. Alberto, abbiamo un minutino per concludere la nostra trasmissione con i tuoi messaggi chiave. Ma io credo che la persona saggia nella vita sa che non può fare tutto da sola e che al momento giusto è giusto chiedere aiuto, e si chiede aiuto alla persona più adeguata per darcelo. Se il nostro problema è nella nostra mente, lo psicoterapeuta e lo psichiatra sono quella persona giusta. La seconda cosa è che molti di noi, proprio riprendendo anche quello che hai detto il tuo ascoltatore, molti di noi vivono in questa società complessa, tantissimi ce la fanno senza sviluppare alcun problema, qualcuno sviluppa qualche problema. Che dici, quindi... Deborah? Dico che è tutto molto interessante, ta-tan, sorpresa, c'è un'intrusa in questa trasmissione. E dovete imparare a fare amicizia con prendere confidenza con questo bis di voci, perché ti è piaciuto? Perché molto. Dal 7 ottobre tutti i giorni faremo compagnia insieme ai nostri ascoltatori con un nuovo programma, lo dobbiamo già dire come si chiama? Non lo so, no, manteniamo ancora come dire un po' di suspense, sveleremo nei prossimi giorni il nome del nuovo programma, che però sarà in onda tutti i giorni a partire dalle 11 fino alle... Non lo diciamo, dalle 11 in avanti. Di che cosa parleremo? Parleremo dei temi che tu affronti tutti i giorni, ma ci metteremo insieme anche i miei. Parleremo quindi di soldi, risparmio e il denaro della famiglia. Perché la salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. E niente, infatti, grazie Nicoletta. I soldi non fanno la felicità. Ti aspetto fra un po' a Salvadanaio. Grazie a tutti, buona giornata, grazie ai miei ospiti. Buona giornata. Essere e benessere.